Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Più volte in questi pochi versetti, San Luca parla di cammino, di incamminarsi, camminare. Perché? Perché la vita è tutto un cammino. Noi camminiamo sempre. Camminiamo, sì, andiamo avanti, il tempo passa, il tempo scorre. In questo momento anche le lancette dell'orologio stanno andando ancora avanti. Non c'è momento in cui l'orologio non vada avanti, non scorra. Noi tutti camminiamo. Dobbiamo domandarci oggi verso dove siamo diretti, dove sto camminando, verso dove sto camminando. Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme, ossia che cos'è Gerusalemme, che cosa rappresenta Gerusalemme, il luogo dove Gesù dà la vita per noi. Cioè Gesù ha preso la ferma decisione di consegnarsi nelle mani degli uomini, di dare la vita per noi. Allora domandiamoci, noi abbiamo preso questa decisione o ancora non l'abbiamo presa? E se l'abbiamo presa, stiamo camminando verso questa meta con una decisione ferma? Oppure tentenniamo, oppure cerchiamo alle volte le scorciatoie, oppure cerchiamo di tirarci un po' indietro? Ecco, ognuno di noi è chiamato a dare la vita, dare la vita. Perché se anche non cerchiamo di non darla, il tempo passa lo stesso e alla fine la vita ci viene tolta lo stesso. Ma nel caso in cui siamo noi che attivamente cerchiamo di dare la vita, abbiamo questa gioia, questa pace, questa serenità di aver utilizzato bene l'esistenza. Nel caso in cui invece lasciamo che la vita scorra e passi, e ci troveremo a mani vuote, ci troveremo senza niente. Quindi rinnoviamo ogni giorno questa ferma decisione di metterci in cammino, cioè di dare la vita. E come si fa a dare la vita? Giorno dopo giorno, rinnoviamo questa ferma decisione. Come? Nelle occasioni della vita quotidiana. Quando ad esempio qualcuno mi fa provare la mia pazienza, quante volte è difficile essere pazienti, è difficile sopportare le persone, è difficile sopportare le contrarietà. Ecco, in quel momento siamo chiamati a rinnovare la nostra ferma decisione di metterci in cammino verso Gerusalemme. Oppure quando abbiamo la tentazione di lasciare andare il nostro lavoro, di non farlo con diligenza, di trascurare un nostro dovere, oppure di portare avanti un compito che abbiamo intrapreso che si è reso piuttosto difficile, oppure di portare avanti una scelta fondamentale della vita come il matrimonio. Quante volte abbiamo la tentazione anche lì di lasciare stare. E invece Gesù prende questa ferma decisione e vuole che anche noi la prendiamo. E passa attraverso il villaggio dei Samaritani. I Samaritani non lo vogliono accogliere. Perché? Perché tra Samaritani e ebrei non scorreva buon sangue. I Samaritani erano considerati dagli ebrei come dei pagani. Perché? Perché erano degli ebrei che si erano uniti però in matrimonio con degli stranieri dominatori di Israele e quindi ormai avevano perso quella purezza della razza. E i samaritani quindi non vogliono accogliere Gesù e gli apostoli pure hanno un'idea falsa di Messia e quindi anche loro fanno fatica ad accettare quello che Gesù aveva predetto loro. E che cosa succede? Che Giacomo e Giovanni, vedendo che i samaritani rifiutano Gesù, che cosa dicono? Signori, Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Vedete, ancora hanno il desiderio della vendetta, nonostante stanno frequentando Gesù da parecchio tempo. Quindi consoliamoci che anche noi che stiamo frequentando Gesù tante volte abbiamo queste tentazioni di vendicarci quando qualcuno la pensa o fa qualcosa che noi non condividiamo. Allora rinnoviamo oggi la nostra ferma decisione di andare verso Gerusalemme, cioè di dare la vita, e rimaniamo fedeli a questa ferma decisione. Buona giornata.